Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mi dispiace, per cui se tornassi indietro non verrei mai ad allenare la Roma. Perché è una cosa forte che hai detto, Luciano. Perché io l'avevo detto il primo giorno che sono venuto. Di aver mancato di rispetto a un grande campione e agli amanti del calcio, anche perché da fuori è sembrato quasi l'avesse fatto apposta. Sì, no, tu sei un giornalista, ti è concesso tutto. Quando invece l'ho fatto giocare 5 minuti, come hai letto che mi ero comportato? Credo che oggi sia diverso, anche perché ne mancano 3 e tutto lo stadio voleva Totti in campo, quindi eravate anche sul 3-1, questo è il mio punto di vista. Sì, sì, ma questo è il suo punto di vista, io gli dico... Solo mio. L'ho fatto giocare con il Villarreal in casa dopo aver vinto fuori casa, non si è visto pallino dall'inizio, non si è visto pallino per tutta la partita. Lei si è dimenticato di fare complimenti alla Roma e di fare complimenti a Dzeko e di fare complimenti. Fa male il suo lavoro perché. No, io faccio domande, non devo fare complimenti. Sì, no, lei fa domande, ma le fa sbagliate, perché la cosa fondamentale è che la Roma abbia vinto, non che uno abbia giocato più o meno 5 minuti. Perché per la Roma e per i tifosi della Roma conta rimanere in lotta per la seconda posizione con il Napoli. Poi c'è anche una questione sentimentale, una questione di cuore, dove lei giustamente mi prende per un orecchio e io gli dico che mi dispiace e che ha ragione lei. Sempre Spalletti a tutto tondo, curioso notare come... Allora, in America, quando c'è un grande campione che annuncia, e lo annuncia all'inizio della stagione, il suo ritiro, i tifosi avversari riempiono ogni volta, ad ogni giro, il palazzetto, si alzano in piedi e applaudono. È stato commovente anche l'addio di Paul Pierce pochi giorni fa con Cleveland. Evidentemente Pallotta la vede in un altro modo, perché stamattina ha scritto: è stato molto bello vedere tutti i tifosi applaudire Totti e la sua mostruosa classe, ma la squadra viene sempre prima di tutto. L'allenatore ha fatto il cambio giusto, perché stiamo combattendo per l'accesso alla Champions League. Comunque, se avesse messo Totti negli ultimi 5 o 6 minuti, qualcuno avrebbe detto che non sarebbe stato rispettoso. Io l'avrei detto, inciso. Non potrei biasimarlo se dovesse lasciare la Roma, perché i media scrivono sciocchezze. Aspettate, a fine stagione avrò molto da dire e vi racconterò tutta la storia. Dunque, la Roma stravince a Milano, per inciso che squallore, non mi viene al momento altra parola per la primavera milanese, magari vengono a voi, 800240024, a proposito in diretta video anche sui social su siti Radio 24 e su Facebook. Roma stravince a Milano, Totti non gioca, Spalletti sì, come abbiamo sentito. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va? Bene. Antonio Padellaro, che invece è direttore del Foglio, invece romanista. No, il Foglio. Non più direttore del Fatto Quotidiano, su quale comunque ha scritto parole molto commoventi a proposito del capitano. Antonio. Eccomi. Allora. Da che parte stai? No, io non sto da nessuna parte, io sto dalla parte di chi va allo stadio ogni domenica quando può e assiste attonito a una serie di cose incredibili. Cioè, il mio titolo potrebbe essere "Continuiamo a farci del male", come disse Paolo Moretti. Sì. Perché non ce n'è, appunto, la Roma vince una bella partita a Milano, sia pure con un Milan, sono d'accordo, non al massimo del suo fulgore. Però mamma mia, riesce, che perifrasi! Sì, ma si riesce a distruggere tutto. per una questione che è stata governata malissimo dalla società, prima di tutto. Ora, io capisco che prendersela con la società è come prendersela un po' con le nuvole, no? Perché tanto la società è qualcosa di impersonale, generico, chi è la società, è Pallotta, Baldissoni. Però effettivamente aver lasciato un po' per aria tutta questa vicenda di Totti, di Spalletti, ha provocato e sta provocando dei disastri immani, perché io non me la sento di gettare la... Lo dico subito, io ho scritto su Totti una cosa, un atto d'amore, come ogni tifoso romanista è giusto che faccia. Non me la sento di gettare la croce addosso a Spalletti, perché lui è pagato per far giocare la squadra, per far vincere la squadra. Lo ha detto in tempi non sospetti, non è pagato per rendere omaggio giustamente a un monumento del calcio. Che ci siano delle questioni che noi non conosciamo, delle ruggini, delle cose, questa è una questione, non lo so, non so che cosa dire, ma certamente il casino che questa storia sta provocando rischia di avere una conseguenza ulteriore. Io non me lo auguro, ma certo noi affrontiamo la Juventus in quella che è una partita centrale anche per il secondo posto, nelle condizioni peggiori, perché noi dobbiamo soltanto immaginare, se le cose vanno avanti così, cosa succederà domenica sera all'annuncio delle formazioni e al nome di Spalletti. Ora, questo non va bene a nessuno. Questo è chiaro. Totti titolare, no, Totti titolare lo escluderei in una maniera più assoluta. Però Pier, tutti dietro a Monchi, compreso il presidente Pallotta, tutti dietro a Monchi, che ha detto chiaro e con un largo sorriso ciò che era già stato scritto, ma nessuno ci credeva. Ah, Totti, l'anno prossimo non c'è più, lo sapete tutti, sì. No? Abbiamo fatto il comunicato, spero che faccia il dirigente. Sì, posso dire una cosa? Prego, prego. Monchi ha fatto una conferenza stampa esemplare, si è dimostrato un professionista, diciamo la sua fama lo ha preceduto, però io ho trovato anche un po' sgradevole aver fatto togliere a lui le castagne dal fuoco. Perché come poi ha detto Capello... Ecco, una dichiarazione così forte, così importante, così definitiva, forse non lo doveva fare un signore, con tutto il rispetto, venuto il giorno prima dalla Spagna. Il problema, il punto centrale, è che alla Roma non pensa nessuno. Cioè, ognuno fa quello che deve fare pensando un po' ai propri interessi. Non parlo di Monchi, che è il meno responsabile di tutti. Pardo? Ma allora, io penso che Spalletti la partita con Totti l'avesse gestita molto bene l'anno scorso. Sì, sono d'accordo. E comunque non l'ha gestita male quest'anno. E devo dire anche che Totti non è che abbia fatto particolari rimostranze. Cioè, è un signore che in campionato non gioca titolare dal 21 settembre. La stagione della Roma è stata una stagione abbastanza virtuosa, al netto di qualche occasione persa di troppo, che poi alla fine non è un dettaglio, perché sicuramente cambia il risultato finale, però insomma non è stata una stagione negativa, non mi sento di dire se è stata una stagione negativa in assoluto. Però c'è, è il fuori campo che è snervante, e lì a me Spalletti non è che mi abbia convinto molto. A me sembra che Spalletti da gennaio in poi abbia preso questa china. Io mi rendo conto che non è facile, mi rendo conto che l'ombra di Totti è ingombrante, mi rendo conto che una parte della stampa romana non l'ha amato troppo, che poi sfidare la Ma Juve... Ma sbaglio, c'è stato anche un momento in cui Spalletti disse, Pierluigi, rinnovo se rinnova Totti, una cosa del genere. Ecco, quando ha cominciato a fare quelle robe lì, io rinnovo se rinnova lui... Ecco, questa cosa, questa gestione, secondo me, mediatica, gli è sfuggita di mano, lo dico sinceramente. Poi ci sta, secondo me, lo scarso utilizzo di Totti di quest'anno, secondo me, non è, sai, io la penso in maniera diversa da te, non è un qualcosa che mi offende, è qualcosa, secondo me, che sta nella logica delle cose. Totti probabilmente avrebbe dovuto, alla fine della stagione scorsa, dopo quel grande finale di stagione, ragionare in maniera diversa, però se lui ha voglia di giocare, voglio dire, non è che ne si può fare neanche una colpa. Sicuramente non è uno di quelli che rompe le scatole, perché Totti, anzi, qualcuno a volte gli ha rinfacciato nella sua carriera, con uno dei pochissimi difetti di un calciatore straordinario, di non avere una leadership così debordante, no, in certi momenti. Quindi sicuramente non gli ha rotto le scatole, come magari altri grandi giocatori con la loro ombra ingombrante nel passato in altre storie hanno fatto. E quindi, però, insomma, ecco, ieri 5 minuti, secondo me, non ci sono dubbi. Se avesse dato 5 minuti a Totti, secondo me si sarebbe fatto un regalo, sì, lui per primo. Chiedeva anche il pubblico del Milan. Ma si sarebbe fatto lui un regalo per primo, perché... Sì, sì. Poi voglio dirti, ma ragazzi, ma da quando in qua si è sentito un allenatore che in piena corsa per il secondo posto, a 3 giornate dalla fine, prima di Roma-Juve, con un punto di vantaggio sul Napoli, dice: io se potessi tornare indietro... Non allenerei la Roma. Posso dire perché? Aspetta Antonio, facciamo così. Abbiamo il traffico e poi parliamo con calma. Convocati. Tutti convocati. Non sarei mai tornato alla Roma, che vuol no, dire? Perché si parla sempre di questa cosa qui e ce l'ho addosso. No, hai ragione, ma se tu dici, io lo capisco, ma se tu dici così che vuol dire? Vuol ma dire che vuol dire? Hai già vuol deciso? Dire... No, che già ma deciso? Questo non conta niente, non conta niente quello che ho già deciso e non deciso. Poi tanto si dice tutto in fondo. Però è un continuo da tutte le parti, ti aspettano a casa, lo striscione. Ed, una mattina a 2 persone gli ho usato srotolarlo, perché io poi a Trigoria ci vado presto, sono arrivato lì, poveretti, questi 2, moglie e marito, erano lì che mettevano lo striscione a Spalletti, e ho detto vi do una che mano, sono rimasti male. No, dicevano sempre la stessa storia, Spalletti, Totti, perché ormai è da 2 anni che va avanti così. Per cui gli ho dato una mano a attaccarlo, poi va a Sky, lo riprende, te lo fa vedere da tutte le parti, poi interviene quello, interviene quell'altro, non so come fare, veramente, a me mi dispiace, perché Francesco poi è veramente un calciatore che in allenamento ti fa vedere ancora la qualità che ha, perché il piede rimane quello lì. Allora, molto divertente questo, non sono d'accordo con chi scrive, secondo me il signor Spalletti è pagato per fare l'allenatore, non il comunicatore con la stampa, non sono d'accordo, è pagato anche per fare il comunicatore con la stampa. Lascio la chiosa ad Antonio Padellaro. No, volevo dire che ho ascoltato le osservazioni per Luigi Pardo e, parafrasando una famosa frase, direi che sono perfettamente d'accordo con lui a metà. Ricorderete la frase del calciatore Gigi Garcia. Allora, no... Qual è la metà che non mi viene? No, poi una piccola parte non mi viene d'accordo sul fatto che Spalletti fa una pessima, io direi una pessima comunicazione, ma la domanda è questa: perché un signore che era arrivato un anno e mezzo fa con le migliori intenzioni nel ricreare lo stile Roma, va tutto bene eccetera, ieri sera io l'ho visto a un certo punto aveva gli occhi lucidi, cioè è una persona, adesso non, per carità, è pagato anche per questo, però mettiamo da parte questi aspetti, guardiamo lui come si presenta. Allora io vorrei ricordare, ma voi siete molto più esperti di me in questo, che questa città e questo ambiente, e ne faccio parte anche io, praticamente abbiamo avuto un allenatore che ci ha fatto vincere lo scudetto, che è scappato via di notte, sì. Ranieri, che oggi è considerato, no, non plus ultra del mito, da un giorno all'altro è scomparso dalla città, credo lasciando anche dei soldi. Spalletti l'altra volta è scappato. Luis Enrique è stato definito un cretino, veniva soprannominato Enrichetto, no? Come per dire, insomma, un ragazzo di bottega. Garcia, che aveva, non ha fatto malissimo, visto che primo anno era addirittura celebrato da tutti i media, è stato improvvisamente diventato dunque Roma magna allenatori. Dunque attenzione, che questa città, questa squadra, questa società, questo ambiente non fa altro che divorare gli allenatori. Io spero che il successore di Spalletti abbia maggior successo, però la vera domanda che mi faccio, e la faccio sottovoce, è quanto durerà, perché purtroppo il problema è che, siccome siamo abituati a non vincere nulla, perché bisogna dire la verità, I romanisti sono purtroppo abituati e frustrati per aver vinto pochissimo. Uh-huh. Ogni volta non si sa bene per quale motivo pensano che la Roma sia a livello del Real Madrid, del Barcellona, della Juventus. Non è così. E chiudo: non c'è niente di peggio nella vita del vorrei ma non posso. Questa è la città del vorrei ma non posso. Beh, c'è anche Milano che non scherza da questo punto di vista, e anche in quanto a pasteggio con gli allenatori, come stiamo vedendo, ne trita un paio, tre, quattro a stagione. Grazie Antonio, alla ciao, prossima. Ciao. Pierluigi, salutiamo insieme Francesco Guidolin. Assolutamente, come stai? Ciao mister. Ciao, bene, grazie, ciao ragazzi. Bene. Io non posso, prima di tornare sui discorsi calcistici, non posso farmi sfuggire l'occasione, se permettete, lor signori, Giro d'Italia numero 100, oggi si riposa. Prologo. Volete sapere se sono preparato? E infatti, sì. Il mister, ma non sei nel gruppo? Non sei in fuga? Che ci fai? Oggi c'è riposo? Oggi c'è riposo. Per quello, se no. No, io volevo condividere con te una considerazione. Visto tutto, al di là della bandiera numero 100 che c'è su questo giro, che è qualcosa comunque di simbolico, di importante, nuovo patrona, come sappiamo, eccetera. Con tutto quello che è capitato dal dramma sportivo di Nibali a quell'altro dramma vero che tu ben conosci, io mi aspetto qualcosa, e lo dico da giorni, di particolare, di significativo e di grande da Vincenzo Nibali. Beh, penso che la sofferenza è stata per tutti coloro che amano questo sport, ma anche per coloro che non sono così appassionati di ciclismo. Parlo della perdita di un ragazzo come Michele Scarponi. Quindi, conoscendo un pelino Nibali e sapendo che la sensibilità del ragazzo è notevole, penso che qualcosa dentro stia bollendo. Sì. Anche perché lui è un creativo, tra l'altro uno che non mette le bandierine sulle tappe, ma va quando vuole andare, quando deve andare. Sì, quando certe sensazioni si fanno vive, lui risponde un po' alla Contador, cioè quei corridori che danno ancora spettacolo, quelli che mancano, ce ne vorrebbero di più, ecco. Sì, ce ne vorrebbe qualcuno in più. Uno peraltro è a casa infortunato e si partiva da casa sua. Sì. Pierluigi, non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di un parere qualificato sul ciclismo che amo così tanto. A te col calcio, la prima domanda. Eccomi qua. Che fossi stato Spalletti, che avresti fatto ieri sera sulla questione Totti? Al netto dei meriti, ovviamente, 4-1 a grandissima Roma ieri sera. La stessa cosa che ha fatto Spalletti. Prima la squadra e poi le altre cose. Tra l'altro mi sembra l'abbia dichiarato lo stesso Francesco Totti, una cosa del genere. Prima la squadra. Spalletti sta facendo un capolavoro, ragazzi, così come sta facendo un capolavoro Sarri. È che la Juve va troppo forte, ma al di là di questo, Luciano, altro ragazzo che conosco perché oltre a essere un mio collega è stato anche un mio giocatore, è stanco di queste polemiche, di questi, ecco, di dover gestire queste tipo, cioè è quello che penso io, non so, no, non è che me l'abbia detto. Ce lo racconti un po', perché io sono dall'esterno, sono perfettamente d'accordo che sia stanco, che sia in certi momenti proprio. Ma non di preparare le partite, di queste cose. Io così, questa è una mia impressione, non ho parlato con lui di queste, non è che ci sentiamo spessissimo. E quindi è una considerazione che faccio io. Scusa, non ho capito bene cosa mi stavi dicendo. No, appunto, anch'io ho questa sensazione, ma tu che lo conosci bene, cioè è abbastanza inusuale, per esempio è abbastanza inusuale sentir dire da un allenatore che comunque sta lottando per il secondo posto col senno, se potessi tornare indietro io alla Roma non tornerei, ecco. Perché qualche volta bisogna, come dire, vedere certe cose che tieni nascoste, che tieni segrete, che tieni taciute dentro di te, qualche volta vengono fuori, così come quando l'allenatore dice io alla fine della stagione mi fermo perché sono stanco, ho bisogno di recuperare. Che Io mi immagino che il giorno dopo che l'hai detto di ma che stupido, che potevo stare zitto, invece qualche volta vengono fuori senza volerlo certe cose che sono vere, che rimangono nascoste, che non vorresti mai dire, ma qualche volta te le tirano fuori. Sì, chiarissimo, chiarissimo. Mister Allegri, Inzaghi, Gasperini, io li ho messi in ordine di classifica, lo fai anche tu o scegli un ordine diverso? No, va bene, direi che va bene, cioè è una buona classifica, ma per quello che riguarda questa stagione, io ripeto, sicuramente Simone Inzaghi ha primo anno in Serie A, sta facendo cose veramente molto belle, complimenti a lui e anche a Pippo. E, Gasperini senz'altro, perché l'Atalanta è ancora lì e molti, me lo ricordo da Udine, ma a un certo punto mollerà l'Udinese, invece siamo rimasti lì per tanti anni. Ed è ancora lì, Allegri, perché vincere, rivincere, chiudere una pagina e riaprirne un'altra vincendo non è mai facile, e quest'anno possono anche vincere la Coppa dei Campioni, quindi ancora di più. Però io sottolineo le il campionato che hanno fatto sia Roma e che Napoli, perché non hanno la forza della Juve, sono due ottime squadre, veramente ottime squadre, ma non hanno la forza della Juve, eppure sono ancora lì. Sì. E giocando un grande calcio entrambe. Sì, credo che Pardo sia d'accordo su questo, l'abbiamo detto molte volte, compreso il discorso su Inzaghi. Sì, sì, no, ma assolutamente. Vabbè, su Inzaghi ormai lo ripeto continuamente, poi è chiaro che questa accelerazione che c'è stata nell'ultimo mese rende la stagione della Lazio ancora più clamorosa. No, ma quello che dice il mister è giustissimo, e l'abbiamo detto mille volte, cioè Roma e Napoli vivono sulla loro pelle la frustrazione, secondo me, di essere due squadre che fanno delle cose eccezionali che dall'esterno vengono vissute come delle cose normali, in certi momenti addirittura come insomma, quasi fossero due squadre sfigate, tanto per capirci, semplicemente perché non vincono il campionato. La verità è che sono su dei livelli di punteggio. Anzi, torniamo al vorrei ma non posso, siamo sempre lì, livelli, no? Come diceva Padellaro. Ma sono livelli di punteggio altissimi, anche di qualità di gioco altissima. Guarda, si è parlato giustamente tanto del gioco del Napoli, e ieri sera la Roma nel momento più difficile ha tirato fuori una prestazione enorme, poi lascia perdere il Milan, sta a pezzi, non c'è discussione, ma la qualità del gioco della Roma ieri, la qualità che si era vista a San Siro contro l'Inter, la qualità che si era vista a Napoli in tante altre occasioni, cioè queste sono due grandi squadre e sono due grandi allenatori, quindi è ovvio che la Juve ti uccide mentalmente, psicologicamente, perché è una squadra talmente forte che, e poi detto fra noi, secondo me tutte e due hanno qualcosa da rimproverarsi. Napoli ha da rimproverarsi ma quel mesetto, ma fisiologiche, sì, cose fisiologiche. Sì, però, ragazzi, la Roma adesso sinceramente con un paio di uscite un pochino più, cioè semplicemente battendo l'Atalanta e non perdendo a Genova senza metterci dentro il derby, che è una partita completamente sbagliata, la Roma oggi è nel corso dello scudetto, quindi e il Napoli è dietro perché essenzialmente dopo l'infortunio di Milik, che è stato chiaramente una ci ha voluto un pochino per capire, per trovare la strada, per trovare una strada che è stata pazzesca, inaspettata, ma l'hanno trovata, è alla grande. Mister, un'ultima cosa, mi spieghi la depressione milanese che inghiotta allenatori come se fossero biscotti? No, io questo francamente non ve lo saprei spiegare, perché come sempre bisogna essere dentro per capire, quindi io penso che il Milan abbia fatto delle cose importanti fino a un certo punto, anche più importanti di quella che è la forza della squadra, e adesso è rientrato un po' nei ranghi, è rientrato un po' nella normalità, un po' in quella che è la forza della squadra, tanti giovani, tanti ragazzi che devono ancora misurarsi con certi campioni, insomma in certi ambienti, e non è facile, quindi secondo me comunque Montella ha fatto un buon lavoro. Per quello che riguarda l'Inter, francamente io un po' me l'aspettavo questa cosa, perché non so perché, io sono tifoso fra l'altro dell'Inter, ma nel senso che un crollo verticale ti aspettavi? No, cioè, allora o bene bene o male male, nel senso che hanno avuto un periodo dopo il cambio dell'allenatore che sicuramente hanno rimontato, hanno fatto bene, hanno fatto un ottimo periodo, però nel momento in cui o per una prima difficoltà sopravvenuta o non so perché cosa, perché queste non sono affari miei, è arrivato un questa situazione, ma francamente spiegarvela non saprei, perché bisogna esserci dentro. Certo. Credo che anche Pioli abbia fatto tutto quello che poteva fare. Io sto parlando dei miei colleghi, perché certo, un po' li conosco, un po' fa parte del mio lavoro. Ma non so dire il perché la squadra, a differenza del Milan, secondo me, da un punto di, ma penso anche secondo voi, da un punto di vista qualitativo è molto forte. Ecco. Sì, sì, sì, io trovo l'atteggiamento dei giocatori inaccettabile, ma questo è un altro discorso di cui parleremo tra poco, dopo aver salutato Francesco Guidolin, che ringrazio. Grazie a voi. Grazie. Ciao, Pier. Fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24, aspettiamo gli ascoltatori. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Secondo me la Roma ci sta superiore nettamente. Quando dico ci sta superiore mi riferisco ai giocatori in campo e all'allenatore in panchina, inevitabilmente. Naturalmente il primo gol è nato casuale, eravamo in superiorità in numerica, abbiamo perso la palla e la loro qualità ha prevalso nettamente, perché hanno fatto un gol incredibile. La situazione simile è capitata sull'1-0 su un disimpegno di De Rossi, non siamo riusciti ad arrivare al tiro. Ti può sfiorare l'idea di mollare tutto? No, assolutamente no. Io ho cominciato un lavoro, un percorso che ci ha dato subito tanto all'inizio. Adesso chiaramente non sta portando i frutti sperati, ma voglio portare a termine il mio lavoro e voglio dare alla squadra tutto il sostegno, tutte le conoscenze che ho per cercare di uscire tutti insieme da questo momento delicato. Ci sia mancata un po' di lucidità e un po' nella gestione della partita, in tante partite, perciò è questo stato il nostro sbaglio. Sappiamo quali sono i nostri sbagli e lavoriamo tutti i giorni per fare sì che si migliorino. Però non sempre è facile, ma soprattutto non è facile con questo ambiente, ecco. L'avrete capito dalla musica, siamo passati al capitolo depressione. Comunque chiami gli ascoltatori, loro rispondono. 800 24 00 24, chissà se ci stanno guardando anche su Facebook, via video su Facebook o sul sito di Radio 24. Pierluigi Pardo naturalmente collegato, sono d'accordo con l'ascoltatore Adriano da Ivrea, con chi che scrive, beh, d'accordo, più che una corsa all'Europa mi pare una camminata all'indietro, Adriano, bisogna aggiungere, mentre sono d'accordo con chi scrive il problema dell'Inter che dopo 7 vittorie si è cominciato a parlare del futuro allenatore, verissimo, basta guardare insomma la cronologia degli eventi. Antonio Roma, buongiorno. Ciao, buongiorno, io chiamo dalla tangenziale est, quindi dalla tangenziale est, perché Luigi Pardo sarà molto evocativa. A che altezza sei? Capirà di cosa parliamo. E a che altezza sei, chiede? Praticamente Salaria, uscita Salaria, uscita storica. Qualche consiglio, Pardo? Vicino a casa mia, un paio di chilometri da casa mia, diciamo, andando un po' più verso il centro. Conosci benissimo come conosci l'ambiente di Roma. Io sono appassionato di Napoli e Roma e trovo la Kerel, Spalletti, Totti ormai essere diventata singolare, abbastanza ridicola, perché gestita male dal mio punto di vista. Secondo me c'è una carenza di società che abbia le redini reali della questione, perché non sarebbe mai dovuto determinare un disequilibrio così evidente, che poi comporta, io immagino Pierluigi, che almeno, vogliamo dire, 2-3 punti sono saltati per questa storia, per quanto sì, riguarda la Roma. Vuoi dirlo, Pardo? Sì, sì, io poi continuo a pensare che alla fine, per esempio, la gestione che la Juve ha fatto in queste ultime due partite, fra Atalanta e Torino, cioè che la Juve di Allegri sia una squadra che in certi momenti decide quasi di frenare, no? Quindi secondo me lo scudetto comunque l'avrebbe vinto la Juve, però sono d'accordo, sicuramente fra Sampdoria, Atalanta, il derby, la Lazio giocava talmente tanto bene che francamente è difficile dire chissà che cosa, però no, che non abbia aiutato l'ambiente non c'è dubbio, ma ti ho detto da gennaio che Spalletti secondo me ha perso un po' il controllo. Io sono complessivamente abbastanza dalla sua parte, nel senso che credo che comunque, come diceva Guidolin prima, l'interesse della squadra sia quello fondamentale. Spalletti complessivamente ha fatto delle buone scelte. Per me si è disunito quando gli ho visto fare quella polemica con quel collega, dargli dello spiegato. Un grande allenatore è un grande allenatore anche per come riesce a gestire Come una quantità industriale prima di rotture di scatole, e qui lui ne ha di rotture di scatole. Esatto. Ma come ti ho detto prima, non sono d'accordo con chi scrive che è pagato solo per fare allenatore. No, è pagato anche per fare comunicazione, perché così, questi sono i tempi moderni. Ieri è una fase senza precedenti, un allenatore che dice qua non sarà, che dice qui non sarei mai dovuto tornare, non ha detto che se ne va via con la Juve domenica prossima che vale il secondo posto. Cioè io non mi ricordo una roba del genere, mi ricordo, ecco, Lippi a Reggio Calabria, però appunto era un'altra cosa, Un'altra cosa, pur essendo inizio campionato era già fine di una storia, strano. Walter Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di essere stato convocato. Io porto il mio personalissimo pensiero sulla questione Totti, ma lo amplio un po' anche in generale al calcio italiano. Nel senso, non è tanto lontano il ricordo della gestione del caso del Piero, fra virgolette, della sua uscita dal calcio giocato in maniera molto più elegante di quella di Totti. Del Piero, ma dipende dai gusti, perché no, vabbè, però Del Piero molto elegantemente voleva continuare a giocare, comunque sia ha scelto poi di finire la carriera altrove, e sì, comunque sì, ha finito un campionato. Però anche lì elegante non mi sembra la parola corretta, visto non che non è stata perfetta nemmeno quella, per un motivo diverso. Esatto. Però sono d'accordo con l'ascoltatore che ha creato sicuramente meno casini, nel senso che ha creato meno casini perché Agnelli si è alzato in assemblea, ha detto Del Piero non gioca più e non sarà neanche più un dirigente. Quindi, grazie e arrivederci. Mi ricordo benissimo, e la considero come una delle telecronache che mi porto dietro, no? Quello Juve-Atalanta con quella standing ovation per Del Piero. A un certo punto la partita nessuno la guardava più. Mi ricordo quei 5 minuti nei quali lo spettacolo era quando Del Piero ha lasciato il campo, tutta l'attenzione, ma quasi degli stessi giocatori e di tutto il pubblico, era su Del Piero che salutava. Quindi, e mi ricordo benissimo che non mancarono le polemiche, perché certamente era una bandiera della Juve mandata via in una maniera abbastanza sbrigativa. Però sicuramente lì, insomma, la Juve ha fatto una scelta razionale, una scelta logica. Con Del Piero quell'anno lì ha vinto e ha continuato a vincere senza Del Piero. Cioè, qui siamo, a ragione Padellaro, a una forma ormai veramente di autolesionismo pafaziano. Cioè, che la Roma oggi non debba, ma non, poi attenzione ragazzi, perché poi già so che qualcuno dirà siete voi giornalisti, non siamo noi giornalisti, ma non è che siamo noi giornalisti. Quando Spalletti viene in conferenza stampa e dice mi dite che lo prendo per il culo se lo faccio giocare 5 minuti, e dice quello che ha detto ieri sera, non siamo noi, sono loro, non siamo sicuro, noi sicuro. Per cui che oggi l'ambiente della Roma, invece di godersi 24 ore belle di relax, di serenità, perché ieri la Roma ha risposto alla grande, sia lì a friggere, in un momento così importante alla vigilia di una partita di questa portata, perché è l'incrocio per mille cose, oltre allo scudetto della Juventus anche la porta del secondo posto per la Roma. Ci fermiamo un attimo, Pierluigi, traffico, poi abbiamo ancora Renzo da Imperia, Michele da Lucca, e quindi ti saluto con cattive notizie per te. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Veloci, vi prego, Renzo, buongiorno. Sì, grazie gente, Renzo da Imperia, dalla Marina, in pausa pranzo, non so se Fardo è pratico essendo passato da qui per andare a Monte Carlo. No, però, pratico posso dire che mi stanno lasciando tutti rosicare, eh? Vi ringrazio, oggi c'ho doppio di Chitaga, perché è il lavoro più bello del mondo, ringrazio Dio, ringrazio anche Mediaset eccetera e tutti quelli che ci seguiranno, però insomma uno sta dietro casa mia lì a Via Salaria, non voglio sapere che fa Corso Trieste, l'altro sta a mare alla Marina, vabbè continuiamo così, dai, bravi. Ecco. Io che sono sempre qui? Beh, niente. Io volevo parlare un attimo della crisi del Milan, secondo me è lì dare un po' la colpa anche a voi giornalisti, perché state tessendo complimenti sempre a Montella, ma Montella è il responsabile di questa situazione, nel senso che il Milan andava bene finché ha ricevuto, io sono milanista per carità, lo dico da milanista, finché ha avuto certi vantaggi al girone d'andata dagli arbitri e via dicendo, un po' di culo, gol negli ultimi minuti e via dicendo. Ma Montella non sa far altro che giocare con questo 4-3-3, tra l'altro un centrocampo che non copre Matti Fernandez, Pasalic, Sosa. Come si può fare a non prendere gol in questa situazione? Con tre attaccanti che non segnano, sono tre attaccanti solamente sulla carta. Montella non, Montella non può mettersi a giocare, mica è colpa sua se non segnano. Mi sembra che il materiale a disposizione di Montella non sia di primissimo livello, in più è venuto a mancare Bonaventura che insomma di quel centrocampo era il dioscuro. Sentiamo anche Michele Da Luca e poi diamo una risposta cumulativa. Michele, Buonasera. Buonasera Salve, è sempre un piacere parlare con voi, purtroppo l'ascoltatore di prima mi ha un po' anticipato per quanto riguarda Spalletti. Bene. E sono pienamente d'accordo su con lei per il commento su Vincenzo Montella, però dicevo siccome Spalletti poi è un toscano come me, dicevo che secondo me oltre ad essere un grandissimo conoscitore di calcio, proprio un grandissimo, è anche un grande comunicatore, anche per il fatto che in un corso di aggiornamento per allenatori è stato portato come esempio di comunicazione. E per dirti poi anche che il signor Del Piero, che è stato un pochettino accantonato da un certo Antonio Conte, ma lo stile Juventus, premetto che io sono un anti-juventino per eccellenza, buon toscano, tifoso pisano, povero disgraziato tifoso pisano, però il signor Del Piero è stato accantonato da Antonio Conte, non è stato fatto niente, solo semplicemente perché lo stile Juventus è proprio sopra proprio tutti, non c'è paragone. E infatti la dimostrazione è che la Juventus sta vincendo da 6 anni lo scudetto. Ah. È tutto qua. Ma è vero, cioè rispondi cumulativamente, Pardo. No, allora rispondo perché è interessante la suggestione. Allora, se vogliamo il cinismo che la Juve mostrò, lo dico con chiarezza, di fronte alla gestione di Del Piero, cinismo può sembrare una critica, diciamo la razionalità. Diciamo così. La razionalità. Ma che cinismo la Juve va bene? Sì, dipende che cosa intendiamo dalla vita. Sai, l'errore classico di tante società è che fanno dei rinnovi contrattuali dopo delle grandi imprese basati così sull'amore, sull'affetto e la gratitudine. Verissimo. E quindi questa è la classica cosa, sa qualcosa la Roma di Sensi dopo lo scudetto, l'Inter del triplete, E lì devi invece chiaramente riuscire a essere lucido, poi è ovvio che essere lucido qualche volta significa essere magari considerato sgradevole o appunto o poco grato per quello che ti è stato dato. Io mi ricordo benissimo, ce lo ricordiamo tutti benissimo, la tensione che ci fu in quelle settimane, in quei mesi fra la società e Del Piero. È chiaro che a distanza di anni ha avuto ragione la Juve, non c'è alcun dubbio, ha avuto ragione anche Del Piero. Sai, Del Piero ha avuto una curiosità quasi da esploratore che Totti non ha avuto, nel senso che chissà se gli verrà perché Totti ancora non ha aperto bocca sul punto. Pierluigi Pardo, ti auguro buon doppio tiki-taka, in bocca al lupo per il doppio tiki-taka. 19, 23, 50. Sì, ho perso ma me lo hai merito. Hai perso me lo merito perché ho la schedina con Capuano, hai perso di uno, complice il derby di Torino, hai gigioneggiato un sacco e adesso siete pari. La verità è che ho sbagliato tutto perché io nelle ultime settimane ho solo gestito la situazione pensando, facendo trascorrere il tempo, giocando con il cronometro. Non ho avuto grande fortuna, sinceramente, se penso all'errore di Pjanic a Bergamo un minuto alla fine che ha girato la partita scorsa. Ma detto questo, quando ho visto Juve Torino X ho detto 1 e ho detto qua vinco facile, invece è stato un grande Torino che merita un applauso. E quindi adesso si ricomincia la gara, ma dalla prossima settimana tornerò a giocare senza fare calcoli. E allora, caro Capuano, era sei avvertito. Grazie Piero. Ciao. Ciao, un abbraccio. chiudo questa prima ora, poi nella seconda, dopo il GR, dovrebbe esserci uso condizionale, ma ci sarà, perché ce l'hanno promesso, Marco Bellinelli ai nostri microfoni. Piero Augusto Stagi, ciao, dal Giro d'Italia. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Allora, doppio riposo dopo il lungo prologo sardo. Cosa ci portiamo via da questo lungo prologo sardo? Tanto doppio riposo, mica tanto, è stata una facchinata a raggiungere l'isola, l'altra isola, la Sicilia che ci ha accolto, non arrivavamo più, ti dico solo che siamo riusciti ad arrivare a Cefalù quasi all'una, siamo partiti ieri sera alle 20.30, vabbè, sì. Detto questo, ci portiamo il dolce ricordo di una terra fantastica come la Sardegna, di tre tappe molto belle, tutt'altro che banali, e una terza bellissima, perché io ieri mi sono divertito un sacco, e credo anche gli appassionati di ciclismo. Gli ultimi 10 chilometri sono stati una dimostrazione di alta scuola. Sembra una banalità, ma lo sai che io insisto spessissimo sulle montagne invisibili, il vento è una roba, è una componente incredibile, che veramente ti frulla l'anima, ti frulla tutto, ti confonde le idee, bisogna saper pedalare nel vento. E ieri la formazione belga, diretta da un italianissimo, Davide Bramati, che è veramente uno dei tecnici ormai più bravi, affermati, riconosciuti a livello mondiale, ha veramente orchestrato e guidato come meglio non poteva il suo Fernando Gaviria, questo ragazzino di 22 anni colombiano, possiamo dire il primo vero colombiano velocista, perché i colombiani sanno andare in montagna, come sappiamo, in montagna, ma questo è uno che va forte su pista, ha vinto titoli mondiali, ma diventerà anche un grande nelle corse. Ogni tanto nasce anche un colombiano sprinter. In Inghilterra non nasceva un corridore neanche a mettercelo apposta, adesso hanno una scuola che te la regalo, anzi vorrei regalarla all'Italia. Come ci mancano i Petacchi, ci mancano i Mario Cipollini, ci manca Alessandro Petacchi, che guarda caso chi è il mentore di Fernando Gaviria, chi l'ha accolto all'Ide di Chiamaiore, è proprio Alessandro Petacchi, uno che ha vinto un 185 vittorie in carriera ed è l'ultimo nostro grande velocista di caratura mondiale. Quando questi due grandi velocisti vincevano, noi lo davamo quasi per scontate, vabbè, ma vincono le gare di un giorno, con le volate, corridori sono, e tanta provateci roba, voi, caro, ma sai. Lo so perfettamente, dai, non dirlo a me. E adesso che non le vinciamo più, anzi, dobbiamo aggrapparci alle spalle del nostro Giacomo. Allora ti dici, com'è che vincevamo le volate e adesso le abbiamo vinte per 20 anni, adesso non le vinciamo più? Fatevi una domanda e datevi anche una risposta. È già informato Gigi Marzullo. Grazie Pierluigi. Sentiamo Pierluigi, l'ho salutato prima, Pier Augusto lo saluto adesso, Stagi che ci segue per noi Giro d'Italia. Ci fermiamo per il GR, poi Marco Bellinelli. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Convocati. myself a real good time. I feel alive. Nessuno ha mai creduto in me in questi anni e alla fine ho vinto. Ancora di rimpianto Belinelli da tre! Marco Belinelli! Col coraggio dei leoni! È la serata di Marco Belinelli! Vince la gara del tiro da tre punti! Un ragazzo italiano è il miglior tiratore da tre punti nell'All-Star Saturday Night 2014. Uscita di Belinelli, più forzato di prima, più dentro di prima! Benvenuti al Marco Belinelli Show! Campione NBA, è già difficile per me dirlo con le mie parole, comunque già pronunciarlo, quindi sono assolutamente stracontento da dir poco. Spero ti piacciono i Queen, Marco. Sì, bellissimo, ciao a tutti. Ciao Marco Belinelli. Stupendo. Si è Marco Belinelli che ha abbandonato la carriera cestistica per darsi alla maratona. Esatto. Diamo questo annuncio ufficiale, giusto? quasi, dai. No, aspetta un attimo perché chiusa la parentesi con Sacramento, che tu stesso hai definito la peggior stagione di sempre, si è ripartito con Charlotte Hornets. A livello personale buona stagione, prima parte anche a livello di squadra, poi nella seconda perché si è spenta la luce? Ma guarda, sì, come stavi dicendo giustamente, buona stagione, però alla fine non siamo riusciti a qualificarci per il playoff. E penso che uno dei motivi sia stato che, vabbè, a parte qualche infortunio di troppo, ma diciamo che quelli fanno parte comunque di un giocatore, comunque di tutto quanto. Abbiamo avuto un giocatore fondamentale per noi, Cody Zeller, che è stato fuori per un mesetto, proprio in quel momento in cui tra gennaio e febbraio abbiamo perso troppe partite, e quindi ci siamo ritrovati alla fine della stagione, diciamo, a rincorrere. Quindi è stato, cioè, ci abbiamo provato, è stato anche bello, ci siamo andati molto vicini, ma abbiamo perso troppe partite in quel periodo, soprattutto, sai, all'ultimo minuto, nell'ultimo quarto, partite punto a punto, quindi cali di difesa. Però insomma, c'è tanto nervoso, ma bisogna andare avanti. C'è tanto nervoso. Oh, per chi non lo sapesse, un proprietario degli Hornets è un certo signor Michael Jordan, che ti ha accolto con una telefonata, no? Quando hai firmato con loro. Sì, assolutamente. È un personaggio, io so praticamente quasi tutto di Michael Jordan, essendo un mio idolo totale mondiale ogni epoca. È un personaggio anche scomodo, difficile, scontroso, pieno di angoli, di spigoli. Com'è il rapporto con lui? Ma guarda, ti dico la verità, che all'inizio mi sono sentito molto, non dico in imbarazzo, ma molto emozionato, proprio perché comunque, sai, giocare le partite con Michael Jordan accanto alla panchina, perché quello è il suo posto quando ti chiami in casa all'arena, è un po', diciamo, strano. Però dopo, diciamo, ci ho fatto un po' l'abitudine, ci ho parlato, è una persona super, nel senso che capisci subito la voglia di vincere che ha, perché comunque cerca sempre di aiutare i compagni di squadra, cerca di darci consigli, e quindi è una persona super. Poi abbiamo avuto la possibilità di scherzarci con lui e fare tutto, quindi no, sono veramente super contento di avere un proprietario come Michael Jordan. Spero di non giocarci a golf. No, perché dicono che sei ancora più bravo lì che a basket. Lo so. Poi gli piace anche scommettere duro, ma questo, questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Invece la stessa storia sarà più scritto dello scudetto della Juventus. Golden State Cleveland in finale oppure no? Ma guarda, io l'altro giorno con Sky, con Mamoli, ho detto, abbiamo provato a fare un po', diciamo, a vedere chi vincerà, abbiamo, diciamo, un po' tirato a caso, e poi a caso poco, però io ho detto finale Golden State contro Boston, però presumo che ci sia un'altra finale Golden State contro Cleveland, Io dico quest'anno Golden State, secondo me. Quindi i Warriors, secondo me, hanno ovviamente Kevin Durant in più, hanno più esperienza, hanno più rabbia, visto che l'anno scorso comunque l'hanno buttata via, anche se comunque LeBron rimane il giocatore più forte dell'NBA in questo momento. Sta facendo dei playoff da paura. A me non piace come gioca Golden State, e questo lo dico tutte le volte. È un basket, diciamo, molto particolare, quindi ho cominciato a guardare le pallacanestro dei New York Knicks, dei Houston Rockets, Old School, Charles Barkley, insomma il gioco lungo e piccoli, palla dentro, insomma è un gioco ovviamente diverso. Sì, sì, sì. Golden State si ritrovano anche a giocare con 5 esterni in campo, quindi però non è proprio con il 5, top, 5 esterni dirlo. In campo, poi la palla si ferma da quelle parti. Tiri lui... un po' strani, poco movimento di palla. Pochissimo però movimento di palla, però 30 punti, 34.4 punti a partita, 9 rimbalzi, 7-1 assist in questo inizio di playoff, che cosa gli vuoi dire? Esatto. Anche se io ho cominciato un po' prima di te a guardare la pallacanestro per ragioni anagrafiche, ma non mi piace. Andiamo su un altro pianeta, molto lontano. Come cantava Lucio Danna, dall'altra parte della luna, non so se fosse proprio lui, ma mi sembra di sì. Playoff Lega 2, le due bolognesi in lotta per tornare in Serie A, c'è un posto solo. Come la mettiamo? Virtus o Fortitudo? Guarda, io sono molto amico di Mancinelli e conosco tante persone nell'ambiente Fortitudo, ovviamente, quindi niente. Probabilmente stasera vado a vedere la partita e andrò a vedere sicuramente la Fortitudo, proprio perché sono amico di Mancio, ma anche per altri motivi. E non lo so, sicuramente è bellissimo vedere le partite Virtus Fortitudo come il derby e tutto quanto. Spero che ci sia il derby in finale, se dovesse succedere, insomma, perché non so benissimo le classifiche se si possono incontrare o no, però penso che mi abbiano detto che può succedere in finale, quindi sarebbe veramente il top del top e ovviamente ne sale solo una. Quindi non è facile, però come nei Lander resterà soltanto una, di queste però due, no, sicuramente spero che prima o poi, più presto possibile, tutte e due le Bologna si possano vedere in Serie A1, perché la città ne ha bisogno, ma io penso il basket in generale penso sia veramente una gran bella cosa. Anche noi ne abbiamo un bisogno fisico, esatto. Di Bologna in Serie A. Senti, capitolo nazionale, dopo la delusione per olimpico, europei. Sei uno dei giocatori che ha sempre dato di più alla maglia azzurra, come ti presenti lì, da Ettore? Ma guarda, molto carico e pieno di energie, nel senso che l'anno scorso ovviamente non è stato quello, è stata, diciamo, una grande estate per noi dal punto di vista dei risultati, perché non ci siamo qualificati appunto per le Olimpiadi in casa e con tante cose, diciamo, a favore, se si può dire. Però no, niente, dagli errori si impara, quindi cercheremo di farci trovare più pronti, con più esperienza, più pronti fisicamente e mentalmente, e spero che questo possa succedere. Quest'anno abbiamo, diciamo, anche più tempo per passarlo assieme, perché comunque tutti avranno la possibilità di finire la stagione, avere un periodo di pausa e poi cominciare con la nazionale, quindi questo per me può essere una cosa fondamentale che rispetto degli anni passati non è potuto succedere, quindi questo ci può regalare qualcosa di positivo e io sono carichissimo e voglio fare bene sicuramente per me stesso e per tutti, diciamo, gli italiani, perché ce lo meritiamo un po' tutti, dai, quindi con un po' di fortuna e un po' di lavoro speriamo di fare bene. Sì, io sono un po' preoccupato, ma non solo per la concorrenza che avete in giro, ad esempio l'altra sera ho visto l'Olympiacos andare alle Final Four di Eurolega, contava i giocatori greci, poi ne conto alcuni da altre parti. Ad esempio chi gioca al Fenerbahce, cioè chi gioca al Panathinaikos, e poi aggiungo quello che io e Davide Pessina abbiamo deciso per comodità di chiamare Gianni, che gioca a Milwaukee, e a me un po' di paura viene, tanto più che insomma abbiamo due giocatori in profondissima crisi e sarebbero importanti, Berinelli e Gentile. Ma guarda, è un po', ma dobbiamo pensare a noi stessi, sicuramente è un basket diverso, ci sono tante squadre fortissime, il livello comunque è altissimo, quindi io penso che non dobbiamo avere paura di nessuno, ma cercare solo di pensare a noi stessi, più piedi per terra, e cercare di fare il meglio possibile. Poi dopo, quando usciranno le convocazioni, cose a cui, diciamo, non ci pensiamo neanche tanto in questo momento, quando ci sarà la squadra cercheremo di essere uniti e di portare l'Italia a livelli alti. Direi che lasciamo fare a quel signore che è attualmente impegnato con i playoff NBA sulla panchina, grande lettore, la panchina degli Spurs. Marco, grazie, è stato molto, grazie a voi. Un grande piacere sentirti, spero anche di vederti presto se capiti dalle parti di Milano. Assolutamente sì. Ciao Marco. Ciao, grazie ancora. Ciao. Marco Belinelli, questo, signore e signori. Anche per voi collegati via web che ci potete vedere sul sito di Radio 24 e su Facebook. Dunque, adesso torno un attimo al calcio perché voglio farvi sentire una top 3 delle voci della settimana che non sono propriamente caratterizzate dall'eleganza più assoluta, ma perfettamente in linea con i giorni che abbiamo vissuto. Comincia da Sinisa Mihajlovic contro il pubblico che lo ha apostrofato al gentile coro di Zingaro di merda. Razzismo non è solo bianco e nero, razzismo sono anche, ci sono altri tipi di razzismo, anche zingaro, anche servo di merda, anche quello è razzismo, no? Però comunque quelli che mi hanno chiamato zingari possono anche venire da me, non c'è nessun problema, me lo dicono in faccia e li aspetto volentieri. Gli dico anche dove abito, vengono là e sono a Principi di Piemonti, vediamo se c'hanno le palle anche là. Affanculo. Per chiusare con un Sinisa Mihajlovic che dopo il derby era carico come una sveglia, non sempre in senso positivo, ma comunque. Poi c'è un mistero irrisolto, cioè la subdola e vigliacca vocetta razzista che gli è arrivata nelle cuffie mentre era pronto con un collegamento con Mamma Rai. Chi ha parlato dietro? Io non ho sentito. Si sa. Pronto? Non so stato io. Sentito qualcosa dietro. Chi ha parlato? Non si sa. Nessuno. Un insulto. Mi sa che ci sono problemi forse tecnici. Forse ci sono delle interferenze dallo stadio. Benatia, non eravamo noi, chiaramente, se si trattava di un insulto, però se ci sono problemi tecnici è meglio chiudere questo collegamento. Sì, meglio sì, anche perché mettete marocchino al posto di zingaro e la frase è quella di prima. Io spero che quanto prima si venga alla luce il proprietario di quella voce, l'unica cosa che posso sperare. Infine Zeman, che se la prende con un giornalista di Pescara. Ha fatto una richiesta di una punta, perché la differenza fra lei e Oddo non c'è, quindi... Lei è proprio fuori, nel senso, no, che assolutamente. Io ho chiesto, ma nel senso che questa squadra, a parte che non l'ho fatto io, però anche se sì, ma lei poteva darsi da fare per trovare lei ha fatto le stesse odore di Oddo, per cui l'avvento su a Pescara non ha cambiato niente. Lo sa quando finisce il mercato? Finisce a gennaio, però si possono trovare. Lo sa quando sono arrivato io? Se possono trovare anche degli svincolati, ciò che non ha fatto Odd e che non ha fatto lei, perché se saranno non è svincolati non saranno bravi. Con il suo arrivo non è cambiato niente, quindi lei non ha fatto altro che far scendere le sue quotazioni. Dunque, un gran bel dibattito, no, non è stato un gran bel dibattito, così come è stato un altro pessimo episodio. La bomba carta lanciata a casa di Sebastiani dopo che gli hanno incendiato la macchina, ma insomma, sentendo i toni non c'è neanche troppo da sorprendersi in questo dannato paese con questi brutti vizi. Ciao Roberto Ungaro. Ciao Carlo, The saluto Voice, tutti. Delle Ciao. Moto. Io no. tu adesso aspetti che io parta dalla gara di ieri a Reds Valentino, una moto che non sta in strada, nemmeno l'avesse guidata Valentino Rossi. Invece Toni Károly, secondo in Lettonia, primo nel mondiale, torna lassù. Sì, parliamone almeno noi, dai, perché si dice questo, che purtroppo in pochi ne parlano, ma siamo tornati leader noi italiani grazie a lui, che è riuscito a portarsi davanti e riconquistare la tabella rossa. E quindi un po' è degno di nota questa prestazione, perché lui può arrivare sì al nono titolo, ce la può fare, e ha poi dimostrato nella gara in Italia cos'è ancora capace di fare, quindi non si può più chiamare vecchietto, ha dato una dimostrazione pazzesca e ci vorrebbe un po' di attenzione in più per il motocross e per lui. quello da dire, bravo Carlo che ne parli. Ma noi lo facciamo ogni venerdì, vi ricordo, sì. Racing Team, Roberto Ungaro e Leo Turrini, guest star, e così per tutta la stagione dalle 15 in poi. È vero, invece è vero. Vado a Erez della Frontera per sentire tutta la delusione e la sofferenza di Valentino Rossi. Sì, è stato un weekend molto difficile, no? È stata una sorpresa negativa, ci aspettavamo di essere più competitivi anche visto l'anno scorso, eccetera eccetera, però abbiamo sofferto tanto e abbiamo sempre fatto molta fatica con il setting delle moto, anche con le gomme. E anche un po' di preoccupazione per il futuro del dottore. Sì, è stata davvero la grande sorpresa, perché questa era una pista Yamaha e invece è stata doppietta Honda. È risorto Lorenzo con la Ducati, la rossa più veloce, quando di solito invece è dovizioso, e quindi un podio. Ma la cosa che ha lasciato tutti lì è la prestazione Yamaha, cioè Vignales solo sesto e Vale decimo. Il problema cos'è stato? La gomma, entrambi hanno scelto la dura, e infatti altra sorpresa, la prima Yamaha arrivata è quella di Zarco quarto, sì, che aveva scelto la morbida. Oggi devi sapere, Carlo, che sono fermati per il test, oggi domani, sono già entrati, finiranno alle 18, c'è caldo, non c'è una nuvola, e perché? Michelin ha portato la gomma dell'anno scorso che aveva a carcassa più dura, quella che tanti vorrebbero così provare. C'è da dire che oggi ci sono 7 gradi in meno rispetto a ieri, perché fino a ieri, finché c'erano 30 gradi, le gomme delle Yamaha andavano bene, sì, e invece in pista c'erano 48 gradi. Quindi hanno scelto la dura, pensando che la morbida si potesse deteriorare, e invece Zarco, che è stato coraggioso, non si è deteriorata e è riuscito a fare la prestazione che ha fatto. Quindi un errore del muretto, dici? Cioè, non è proprio del muretto, però è un insieme di cose. Certo che questo punto di domanda delle gomme va risolto, perché non può essere il baricentro di una prestazione. Cioè Yamaha non può andare bene, essere la moto più bilanciata, la moto vincente fino alla gara prima, e poi si invertono le cose improvvisamente. C'è da vederci chiaro, una cosa è certa: se anche i piloti dovessero decidere la carcassa vecchia in questi due test, non arriverebbe subito, ma arriverà solamente per il Mugello. Questo, sì, è quanto ha dichiarato Michelin. Sì. Avranno un altro test dopo Le Mans a Barcellona, pista a porte chiuse, test privati dove potranno ancora provare. Avranno due possibilità per ogni tipo di carcassa, quella dura dell'anno scorso e quella morbida, più morbida di quest'anno. Staremo a vedere. Certo, gara delle sorprese, Carlo. Abbiamo un problema da risolvere in Yamaha, sì, ma Lorenzo, così non te lo aspetti, lo sentiamo. Beh, questo risultato sale come una vittoria. Abbiamo sofferto molto, no? Sofferto molto la mancanza di risultati, la mancanza di velocità, le critiche delle persone che hanno parlato troppo presto, no? E no, non mi hanno lasciato tempo per l'adattazione. Hanno detto che era impossibile che un pilota pulito come io fosse competitivo con la Ducati. E questo risultato va un po' dedicato a queste persone, no? Che hanno parlato un po' presto, no? Spero non abbia parlato un po' troppo presto anche lui. No, speriamo. Comunque, sai che è stata veramente una reazione sua, perché la moto non ha avuto stravolgimenti. Sì, si sono concentrati di più sulla ciclistica rispetto al motore, cosa che lui chiedeva, ma non assolutamente nulla di rilevante. È lui che ha reagito, perché appunto nell'orgoglio tutte le voci e le critiche che ha ricevuto gli hanno fatto del male, l'hanno appunto nell'orgoglio, e lui ha reagito in una pista amica, perché lì aveva il record e è sempre andato fortissimo. Però ragazzi, guidava come non l'abbiamo mai visto guidare, non sembrava quasi neanche più una Ducati. Quindi sta a dimostrare questo, che cosa, Carlo? Che l'uomo, il pilota, fa ancora tanto la differenza quando si parla di moto mondiale. Sì, cosa mai, che in Formula 1 mai non è più così. Sottostimare l'orgoglio di un campione, dice un famoso detto americano. Lorenzo certamente è un campione, ma allora c'è da riflettere anche sulle gare precedenti e sul futuro, certo, della stagione. E allora, certo, adesso che succede? Abbiamo parlato tutti troppo presto. No, o magari ha parlato un po' presto lui, lo scopriremo vivendo le prossime gare, mi pare, Roberto. Esatto, comunque i problemi ci sono, Carlo, perché la lettura è dovizioso dove è finito, come non riesce ad arrivare alla prestazione, quindi la Ducati è ancora lontano, non è una moto che curva nelle curve di ritorno, non chiude la curva come dovrebbe fare, non ha l'agilità, la maneggevolezza che hanno le altre due moto Honda Yamaha, quindi la moto è indietro, però... fa capire come fa la differenza ancora l'uomo. E poi lasciamelo dire, Carlo, vedere lo sguardo, la tensione, lo sguardo di Pedrosa prima del via, sembrava quasi stesse male, stava quasi per vomitare, è la concentrazione. E poi vederlo piangere. Senti, ma Gibernau nel box di Pedrosa significa qualcosa di, ma allora, di diverso? Quello che si dice è che fino all'anno scorso, quando c'era Puig, l'altro suo mentore, l'altro suo agente, lui non era contrariato, non era mai di buon umore, non gli piaceva, insomma, correre quasi. Adesso sembra un altro ragazzo, è più col sorriso, è più rilassato. Questo potrebbe far capire che comunque la persona in fianco ha un senso, non tanto per la strategia tecnica e quanto per la mente. Per la mente. Sul talento non ha mai discusso nessuno, sul talento di Pedrosa, sul carattere di Pedrosa invece io discuto ancora adesso e non smetterò mai di farlo. Non è un combattivo, non è un vincente in quello, assolutamente. Non è un vincente. Però, caro, lasciamolo dire che visto gli anni che è lì, è comunque sempre stato al vertice, anche gli arrivasse un mondiale sarà difficilissimo. Secondo me sono felici in tanti e lui alla fine se lo merita. Sì, se lo merita, anche perché non ha mai rotto le scatole al fenomeno di turno che aveva davanti. Grazie Roby, ci sentiamo venerdì. Un saluto. Venerdì appuntamento con tutti i convocati Racing Team ogni venerdì dalle 15. Intanto io vi saluto, tanto tempo ne manca, avremo modo di parlare di sport per tutta la settimana, come sempre. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzare in redazione. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.